Non tollereremo altri blocchi. A Palazzo Chigi il tavolo governo parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro, riforma che secondo il ministro Fornero sarà pronta entro un mese. Schettino non era sotto l'effetto di droghe il giorno dell'incidente al Giglio, lo dicono gli esami tossicologici. Sia il servizio civile per i giovani stranieri, conseguenza un pasticcio, tutto bloccato dal 1 febbraio, le associazioni resteranno senza volontari. Una giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. A Palazzo Chigi l'incontro governo parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro. La riunione sta andando avanti da un paio d'ore. Ha fatto una breve apparizione anche il presidente del Consiglio Mario Monti. Ne parleremo fra pochissimo. Sentiremo come stanno procedendo i lavori. Prima invece le proteste degli autotrasportatori. Un paese bloccato, quello che vi stiamo raccontando da questa mattina, con blocchi, code, disagi e tantissime arrabbiature per chi deve muovere. Per quanto riguarda il quadro completo dei blocchi, vi rimandiamo al prossimo appuntamento con Strade in diretta, non dalle 13.15, dunque all'interno di questo radiogiornale. Ora invece soffermiamoci sui motivi della protesta, cerchiamo di capire dunque le ragioni che stanno dietro a questi blocchi. Sentiamo Maurizio Longo, segretario nazionale Trasporto Unito, al microfono di Adriana Fracchia. La prima riguarda tutti i costi, quindi il gasolio, le assicurazioni, i pedaggi autostradali, che non consentono alle imprese di pareggiare i conti, evidentemente, perché c'è un sistema di corresponsione dei servizi di autotrasporto al di sotto di questi costi. Il secondo aspetto riguarda invece tutta la parte disciplinatoria che è stata approvata dal Parlamento italiano e che non viene applicata, e mi riferisco ai costi minimi di sicurezza, ai tempi certi di pagamento e altre disposizioni che dovrebbero rappresentare i diritti delle imprese di autotrasporto. La protesta proseguirà fino a venerdì? Questo è il programma, auspichiamo invece un intervento da parte del governo, perché noi non vogliamo operare per manifestare e creare disagi, noi vorremmo ottenere dei risultati che facciano sopravvivere le nostre imprese. Ma il fronte degli autotrasportatori è tutt'altro che unito, ci sono sigle che infatti non aderiscono alla protesta, come la CNA FITA. Sentiamo Cinzia Franchini, presidente appunto della CNA FITA, ancora al microfono di Adriana Fracchia. La CNA FITA non ha mai proclamato questo fermo e ci dissociamo, pur comprendendo la disperazione delle nostre imprese, perché è un fermo sbagliato, è un fermo che è in mano ai sobillatori e ai professionisti del fermo, che stanno solamente cercando visibilità o altre opportunità o opportunità politiche che nulla hanno a che vedere con i problemi dell'autotrasporto. Noi abbiamo aperto un'interlocuzione diretta con il governo e non solo, e stiamo con il governo cercando di risolvere le nostre problematiche. Abbiamo già ricevuto risposte importanti, per cui riteniamo che questo fermo selvaggio non potrebbe far altro che peggiorare la nostra già difficile soluzione. Noi invitiamo tutti gli autotrasportatori a non aderire a questo fermo selvaggio. E il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, avverte: non saranno consentiti altri blocchi. Riferirà domani in Senato il ministro dell'Interno Cancellieri sulle proteste degli autotrasportatori in Sicilia. Il responsabile del Viminale tuttavia oggi interviene sulla situazione che sta riguardando più zone del paese ed avverte: non saranno tollerati blocchi stradali. Fin dove si può, aggiunge il ministro, useremo tolleranza e dialogo, però bisogna anche tenere presenti i diritti dei cittadini. Attenzione dunque da parte dell'esecutivo alle diverse forme di protesta, con un'ulteriore precisazione: siamo anche pronti ad usare tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione. È giusto che le proteste si manifestino, sottolinea ancora il ministro dell'Interno, sempre però nel rispetto della legge. Ci sarà dunque massima attenzione alla cornice di legalità in cui avvengono queste manifestazioni. Quanto al rischio che le proteste scavalchino i sindacati, prosegue il ministro Cancellieri, questo è un problema, perché quando si fanno fughe in avanti si può andare oltre la legge e noi su questo saremo molto rigorosi. Poi un riferimento alla logistica con cui il Viminale segue l'evolversi della vicenda. La situazione è costantemente monitorata e abbiamo allestito 2 sale crisi al Viminale, una per l'ordine e la sicurezza pubblica, che segue il fenomeno delle proteste, ed un'altra più specifica della polizia stradale, che segue gli aspetti legati alla circolazione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come se non bastasse ad aggravare una situazione già davvero abbastanza difficile oggi per chi si deve muovere, si aggiunge anche lo sciopero dei taxi. In diretta Andrea Viali. È così, sta creando disagi in diverse città questo sciopero nazionale dei tassisti contro, lo ricordiamo, le liberalizzazioni del governo Monti. Difficile stamattina trovare un'auto bianca in servizio. I tassisti contestano in particolare l'istituzione dell'autorità a cui spetteranno tutte le decisioni sulle nuove licenze. La loro protesta è iniziata alle 8 e si concluderà alle 22, ma dall'assemblea del Circo Massimo a Roma i sindacati di categoria hanno già minacciato nuovi scioperi se il decreto non sarà modificato in Parlamento. Iniziative di protesta sono in corso in tutta Italia. A Bologna sono arrivati tassisti provenienti da 5 regioni e decine di auto bianche hanno sfilato in corteo a Passo Duomo, naturalmente con pesanti ripercussioni sul traffico. Stessa forma di protesta anche a Bari. A Milano i tassisti si sono invece radunati nella zona di San Siro. Assemblee sono in corso poi anche a Cagliari, a Perugia, a Torino e a Palermo, città quest'ultima dove la protesta si concluderà in anticipo, cioè alle 18. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Chiudiamo questo lungo capitolo dedicato ai disagi dovuti appunto ai blocchi, agli scioperi di autotrasportatori e taxi, come avete sentito. Torniamo invece al tavolo in corso a Palazzo Chigi fra governo e parti sociali. In diretta da Palazzo Chigi, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Servono buone soluzioni strutturali per il mercato del lavoro e l'invito che il Premier Mario Monti ha rivolto alle parti sociali aprendo l'incontro in corso da quasi 3 ore a Palazzo Chigi, presenti CGL, CISL, UIL, UGL, Confindustria e Rete Imprese Italia. Monti, secondo le indiscrezioni, ha ribadito che la discussione non può ridursi al solo articolo 18 e ha assicurato che non si procederà per decreto. Poi il Premier ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi a Bruxelles. Il confronto è proseguito con il Ministro del Welfare Fornero. I tempi saranno stretti, ha spiegato, entro un mese dobbiamo avere la riforma, ma puntiamo al più largo consenso sociale. 5 pilastri, tipologie contrattuali, formazione, apprendistato, flessibilità, ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro, e verranno istituiti altrettanti gruppi di discussione informatici, un nuovo approccio alla trattativa in cui gli input verranno forniti dal governo per poi lasciare risposte e indicazioni alle parti sociali. Un metodo che a quanto pare non è piaciuto al leader della UIL Angioletti. Temo che il metodo suggerito, ha detto, possa favorire il disastro. La definizione delle soluzioni deve essere il prodotto di un confronto negoziale vero, mentre il leader della CISL Bonanni ha chiesto di procedere con cautela, no a forzature né a fughe in avanti. Il bilancio della staremo a vedere quale sarà il bilancio dell'incontro, visto che più tardi le parti sociali terranno una conferenza stampa. Da Palazzo Chigi è tutto, a voi. Staremo dunque a vedere, grazie ad Alessandra Schepisi. Andiamo invece all'estero, perché 27 ministri dell'Unione Europea hanno approvato ufficialmente l'embargo di petrolio contro l'Iran. Ci colleghiamo dunque con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora, decisione presa, quali potrebbero essere a questo punto le conseguenze? Sarà uno strumento di pressione sufficiente per il governo iraniano, secondo te? Ma innanzitutto bisogna vedere cosa fanno gli iraniani adesso, perché un portavoce iraniano, Ali Falayan, che ha una vecchissima conoscenza, ex capo dei servizi segreti, avrebbe persino proposto di sospendere immediatamente le forniture di petrolio iraniano all'Europa in modo da far aumentare i prezzi. Ecco che questa potrebbe essere una conseguenza immediata, un rialzo dei prezzi sui mercati internazionali. Poi se sarà mezzo davvero di pressione lo vedremo nelle prossime settimane. Il 28 gennaio la IAEA, l'Agenzia Internazionale per il Nucleare, si recherà a Teheran per l'ennesima verifica sui programmi atomici iraniani. Si tratta di una lunga storia questa, una lunga storia che promette però di diventare costosa anche per il suo paese, perché oltre alle sanzioni sul petrolio ci sono quelli sulla banca centrale, e questo vuol dire in gran parte un blocco delle esportazioni dell'Iran. Ecco Alberto, un'Europa unita, no? In questa decisione è un po' una novità su temi di questo genere. Beh, un'Europa unita perché gli Stati Uniti hanno fatto forti pressioni sugli europei da questo punto di vista. Queste alle sanzioni sull'Iran bisogna aggiungere anche quelle che sono state prese oggi stesso anche nei confronti della Siria, un 11° pacchetto di sanzioni contro Damasco, che come sapete ha rifiutato il piano della Lega Araba per in modo che Bashar faccia una transizione dei poteri più velocemente possibile, e Bashar Assad ha rifiutato tutto il piano. Bene, c'è una sorta di pressing nel Golfo da parte degli Stati Uniti, dell'Occidente, ma anche e soprattutto delle monarchie sunnite, delle monarchie petrolifere, insomma una sorta di fronte contro l'Iran e i suoi alleati. Ecco, notizia proprio di questi minuti: se dovessero esservi problemi nella vendita del petrolio iraniano, sicuramente chiuderemo lo stretto di Hormuz, lo ha detto Alberto, lo commentiamo insieme, il vicepresidente della Commissione parlamentare di sicurezza nazionale e politica estera Mohammad Kousari, e secondo quanto riferisce la Fars, dopo appunto l'approvazione delle sanzioni europee contro il programma nucleare iraniano di cui stavamo parlando poc'anzi, quindi arrivano minacce. Beh, la minaccia della chiusura dello stretto di Hormuz era stata ventilata apertamente dagli iraniani nelle scorse settimane, aveva agitato gli Stati Uniti e tutte le cancellerie mondiali. Chiaramente una chiusura sarebbe quasi equiparabile a un atto di guerra. Ieri è passata una portaerei americana scortata da navi francesi e inglesi, un messaggio molto chiaro inviato a Teheran: da Hormuz passa un quinto dei rifornimenti mondiali di petrolio, circa il 20% dell'oro nero che arriva in Europa, e soprattutto la maggior parte dei rifornimenti di petrolio e di gas verso i paesi asiatici. Ecco, a questo punto è chiaro che il confronto diventerebbe molto, ma molto difficile, complicato e forse molto anche pericoloso per tutti noi. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Noi torniamo alle cose di casa nostra, perché il governo Monti starebbe pensando ad uno slittamento della candidatura di Roma alle Olimpiadi, non più dunque 2020 ma 2024. All'origine non soltanto, ma anche questioni, tanto per cambiare, economiche. Siamo qui a commentare questa notizia con il nostro Carlo Genta. Buon pomeriggio, buongiorno Piera, buongiorno a tutti di nuovo. Beh sì, questioni economiche, ma non solo, insomma ci sono diversi nodi da sciogliere. Il governo Monti non è mai stato così convinto della candidatura di Roma per 2020, candidatura che aveva avuto il sostegno ovviamente del governo precedente, con l'ex sottosegretario Gianni Letta, che era anche presidente d'onore del comitato promotore di Roma 2020. Adesso si provano a fare i conti e si valutano anche ragioni di opportunità per qualcosa che nessuno ha mai fatto. Cioè, ci sono state ovviamente in passato molte rinunce, ma nessuno ha mai detto: benissimo, sposto la mia candidatura più in là. Tra l'altro Roma vorrebbe candidarsi nel caso in cui venisse attuata questa manovra, ovviamente per l'organizzazione delle Olimpiadi del 2024, che cadrebbero, questo governo Monti piace molto, a ridosso del giubileo del 2025. Dunque potrebbe esserci questa mossa sorpresa. Ricordiamo che un'Olimpiade, l'organizzazione delle Olimpiade, costa 8,2 miliardi di euro, sono moltissimi soldi che verrebbero spesi per due eventi a questo punto, e non soltanto per uno, no, forse per, in qualche modo la sì, vicinanza esatto. Tra i due eventi giubileo consentirebbe qualche risparmio con il placet probabilmente anche del Vaticano, e facendo un favore anche ad altre candidate per il 2020, cioè Turchia, Giappone e Madrid, che potrebbero ringraziare l'Italia per questo passo indietro, Piera. In estrema sintesi, sul fronte invece del calcio giocato, poche sorprese dall'ultima giornata di andata di ieri. Poche sorprese e un mezzo titolo, cioè quello della Juventus che è diventata campione d'inverno, poi Milan, Udinese e Inter vincono e continuano la rincorsa. Gli autotrasportatori, l'avete sentito anche poco fa nell'appuntamento con i colleghi di Strade in Diretta, fermano l'Italia. Il ministro Cancellieri avverte: non tollereremo altri blocchi. A Palazzo Chigi il tavolo governo parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro, riforma che secondo il ministro Fornero sarà pronta entro un mese. E ripartiamo dalla pagina economica. L'Unione Europea deve rafforzare le difese anticrisi. Senza paesi come l'Italia e la Spagna in grado di ripagare i debiti, potrebbero essere costretti ad una crisi di solvibilità dagli enormi costi di finanziamento, con implicazioni disastrose sulla stabilità del sistema. A parlare così il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, secondo cui il 2012 deve essere l'anno della guarigione. Altrimenti, dice, possiamo facilmente scivolare in un momento come quello sperimentato negli anni 30. A Bruxelles intanto la riunione dell'Eurogruppo, che per il governo Monti è l'occasione per tornare a chiedere un rafforzamento del fondo salva stati e ottenere flessibilità nel taglio del debito. Per gli altri paesi di consolidare e andare avanti con le misure anticrisi. E il governo di Atene pubblica la lista della vergogna, come era stato annunciato qualche tempo fa, cioè di quanti non pagano le tasse. Il premier tecnico Lucas Papademos ha messo su internet l'elenco di 4.152 evasori fiscali greci, che complessivamente devono alle casse pubbliche 15 miliardi di euro. Il passo compiuto, cui danno particolare rilievo i quotidiani tedeschi, avviene a poche ore dall'avvio del vertice UE dei ministri delle finanze dell'Eurogruppo, che dovrà dare il via al secondo piano d'aiuto ad Atene da 130 miliardi di euro. Il ministro delle finanze, Vangelos Venizelos, parla di lista della vergogna, ma pare difficile, secondo gli esperti, nel migliore dei casi, recuperare più di un quinto della somma totale. A marzo Atene deve restituire 15 milioni di euro ai creditori, ma ha solo in cassa 11 miliardi. Come fare? Se ci fosse stata una lotta all'evasione migliore, forse Atene non sarebbe in queste condizioni. Vittorio Darol, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La crisi accelera i fallimenti. Lo scorso anno sono aumentati del 7,4% a quota 12.000, cifra record dalla riforma della normativa fallimentare. Sono i dati elaborati dal CERVED, da quali emerge che negli ultimi 3 anni i crack sono costati oltre 300.000 posti di lavoro. È il solito pasticciaccio all'italiana, in questo caso parliamo di servizio civile. Sono infatti centinaia gli enti che aspettano volontari che probabilmente a questo punto non arriveranno. Sentite perché. Sarebbero dovuti entrare in servizio a febbraio, ma non sarà probabilmente così per 18.000 volontari del servizio civile. Tutto questo per una sentenza del Tribunale di Milano. A fare ricorso era stato un ragazzo pakistano escluso dal servizio perché straniero. Il Tribunale ha riconosciuto la discriminazione contenuta nei criteri di selezione ed ha intimato al Ministero per la Cooperazione e l'Integrazione, che ha la delega in materia di servizio civile, la riedizione del bando 2011. Il Dicastero però ha già annunciato ricorso. Il ministro Riccardi assicura che si stanno cercando soluzioni in grado, nel rispetto delle norme, di sbloccare la partenza dei vincitori. Riccardi si dice non personalmente contrario all'ingresso di giovani stranieri nel servizio civile, ma precisa al momento la legge non lo consente. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Saranno 11 cavalli sequestrati dalla Guardia di Finanza di Padova a ripagare 300 operai cui non sono stati versati stipendi e contributi per mesi da un imprenditore ora nel mirino delle Fiamme Gialle. Ci racconta cosa è successo il tenente colonnello della Guardia di Finanza Ivan Toluzzo al microfono di Anna Migliorati. L'azienda era un'azienda inizialmente sana. Pertanto progressivamente ha svuotato l'azienda di tutte le sue attività e le ha riconvertite in un nuovo tipo di attività che era quella del cavallo. Chiaramente contributi previdenziali, IRPEF, stipendi e quant'altro non gli interessavano più. Il problema è che lui operava nel settore dell'edilizia e quello è un settore dove spesso, magari per mancanza di liquidità, perché il committente vuole fare qualche modifica, cioè l'operaio sa che qualche mensilità può saltare, arrivare in ritardo o altro, quindi non si erano neanche preoccupati all'inizio. E tra questi cavalli avete scoperto che tra l'altro c'era un possibile davvero puro sangue? Uno dei tanti figli di Varenne, che tra l'altro aveva anche cominciato a vincere. Questi 11 cavalli adesso che dove sono? Allora, questi sono stati assegnati in giudiziale custodia ad un'altra società. Le eventuali vincite, qualcosa è già arrivato, vanno nel fondo unico per la giustizia e vanno in parte a ripagare il buco lasciato dal soggetto. Quindi chiaramente a beneficiarne saranno i dipendenti e gli altri poi a seguire. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Non solo gli attori e i cantanti che vogliono sfuggire al fisco, ma anche i giocatori d'azzardo hanno preso l'abitudine di spostare la residenza all'estero per non pagare le tasse. La notizia è contenuta nel dossier di Libera Azzardopoli, curato da Daniele Poto, intervistato per noi da Valeria De Rosa. Ci gettiamo in un ambiente, ad esempio quello del poker, la nuova frontiera del poker online, dove i giocatori più famosi, non so, Max Pescatori, sono diventati ormai delle star, ma trascinano anche dei discorsi e piccoli scandali di evasioni fiscali, perché un po' l'offshore è di casa in questo mondo, quindi spesso hanno preso, i giocatori più famosi hanno preso la residenza a Monte Carlo, in altri luoghi, e c'è proprio un'indagine, un'infrazione, un'apertura, un'istruttoria aperta dalla Guardia di Finanza proprio su questo denaro illegale, quindi le possibilità di infrazione, di riciclaggio del mondo del gioco sono davvero infinite. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24. Torniamo al naufragio della Costa Concordia. Stamattina è arrivato l'esito dei test tossicologici sul comandante Francesco Schettino. Ebbene, gli esami dicono che Schettino era pulito, non era dunque sotto l'effetto di droghe. Intanto proseguono le indagini. Questa mattina in procura a Grosseto è la volta del capitano di fregata Gregorio De Falco della capitaneria di Porto di Livorno, l'uomo che, sicuramente lo ricorderete, invitò Schettino a tornare immediatamente a bordo dopo l'incidente. Le dichiarazioni di Gabrielli, il commissario delegato dell'emergenza della Costa Concordia, secondo cui a bordo della nave potrebbero esserci stati clandestini, hanno acceso i riflettori sulla presenza di stranieri fra gli equipaggi delle imbarcazioni italiane. Per la Fit CISL, i marittimi stranieri costituiscono l'80% degli equipaggi, ma il comandante Remo Di Fiore, segretario dei marittimi, esclude che ci possano essere lavoratori in nero. A mio avviso è praticamente impossibile. Per motivi di security, proprio per norme internazionali dell'antiterrorismo. Non so, è come se lei dice io salgo sull'aereo da clandestino, i controlli sono identici, sono gli stessi, anzi le prendono le impronte digitali e le fanno la foto. Per metter piede su una nave bisogna avere i 4 corsi di base, sicurezza, incendio, primo soccorso e quant'altro, che vengono fatti in scuole riconosciute dalla IMO, che è un'organizzazione internazionale che si occupa della sicurezza basata a Londra. Anche se lei va a fare lo sguattro, qualsiasi cosa, deve avere questi corsi di base. Poi ci sono quindi forti controlli? Esatto, cioè l'autorità marittima arriva una nave in porto e va a bordo e può dire fatemi vedere le certificazioni di Tizio, di Caio. Ma secondo lei perché Gabrielli ha parlato di clandestini a bordo? Si riferiva forse ad accompagnatrici, clandestini secondo nel senso di accompagnatori clandestini? Di passeggeri, secondo me. Increduli e sorpresi si sono mostrati così ai carabinieri i genitori dei due minorenni, in particolare del 13enne, componenti della banda che ha rapinato in casa un'anziana 83enne nel napoletano. Persone per bene che lavorano onestamente, hanno sottolineato i carabinieri, sconcertati dall'aver individuato fra gli autori del colpo appunto un 13enne che frequenta regolarmente la scuola. Greco al liceo classico, matematica al liceo scientifico, lingua straniera al liceo linguistico, pedagogia al liceo pedagogico, figura disegnata al liceo artistico, economia aziendale, ragionieri, topografia e geometri, alimenti ed alimentazione all'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione. Sono solo alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta degli esami di Stato 2012, prima prova il 20 giugno. La BBC vuole tagliare le spese, per questo sta iniziando le ricerche per assumere un nuovo direttore generale che percepirà un salario molto più basso di quello di Mark Thompson, l'attuale direttore generale, che guadagna 671.000 sterline l'anno. Come ha detto Lord Patterson of Barnes, presidente del BBC Trust, una società internazionale di cacciatori di teste, è stata incaricata di preparare il primo piano di successione per quella posizione. E sbarca oggi in Francia l'Huffington Post, il più potente blog al mondo. I primi post furono lanciati in rete il 9 maggio del 2005. A distanza di quasi 7 anni, l'Huffington Post conta 36 milioni di lettori al mese. Il blog più potente del mondo viene lanciato oggi in Francia, ultima tappa di una sorta di franchising che conta già le versioni inglese e canadese, quella spagnola online da marzo e quella italiana entro la fine di quest'anno. A capo di questo colosso c'è Arianna Huffington. Origini greche, 61 anni, considerata una delle donne più potenti della stampa americana, è nota per la sua penna tagliente e per il suo impegno politico, sia durante il matrimonio con il miliardario repubblicano Michael Huffington, sia dopo il divorzio, con l'avvicinamento ai democratici culminato nel decisivo supporto a Barack Obama. Sull'HuffPost, così viene chiamato negli Stati Uniti, si trovano news e commenti, la carta vincente e la sintesi e la sempre maggiore interazione con i social network. Notizia dentro la notizia, a capo dell'edizione francese ci sarà Anne Sinclair, giornalista star della TV d'Oltralpe, finita sulla gogna mediatica insieme al marito Dominique Strauss-Kahn. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.